volgere lo sguardo verso le armonie, il resto non sono poi le mie per natura, ma le guarderò ammaliato senza provocare danno a questo nostro profondo amore nero. Proprio noi che nell'abisso di noi eravamo luce davvero, davvero, dove sarà, dove sarà la vertigine? Quella che non ti lascerà, non ti lascerà più andare. Scriverò della nostalgia a mantenere vivo il ricordo di questo nostro profondo amore nero. Di noi eravamo luce davvero, davvero, dove sarà, dove sarà la vertigine? Quella che non ti lascerà più andare. Dove sarà? Dove sarà la vertigine? Quella che non ti lascerà, non ti lascerà più andare.